Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Buongiorno a tutti. Hanno rinviato la discussione sul disegno di legge di Alfano, del ministro della giustizia, sulle intercettazioni, di cui abbiamo già parlato una decina di giorni fa, rinviato in Parlamento. Siamo tutti incerti, siamo tutti così un po' sofferenti, perché lo si vede anche dalle telefonate degli ascoltatori, lo si vede da ciò che si legge sui giornali. Le intercettazioni sono una cosa importante, certo, per fare le indagini nel mondo moderno, in cui quasi tutto si sviluppa e avviene al telefono, attraverso le email, ne abbiamo parlato tante volte. Però qualcosa bisogna fare. Perché? Perché ti può capitare quello che è capitato a un dirigente importante della RAI, la grande corporation, la grande fabbrica di cultura, di informazione, di fiction, cioè di storie, insomma questo strumento decisivo, delicato, che entra in tutte le case. Un dirigente importante di questa struttura a un certo punto è andato sotto la ferula del giudice penale, e attraverso le intercettazioni, che rivelano sempre un elemento un po' birbone della personalità di ciascuno di noi, le intercettazioni sono fatte apposta per mettere in piazza, il risultato di un'intercettazione è mettere in piazza il privato, quindi i sentimenti, le sfumature nelle relazioni personali. Queste intercettazioni, con questi testi delle intercettazioni che tutti hanno letto, che sono state pubblicate su tutti i giornali, sono state date addirittura in diretta nei siti internet, sono state replicate in televisione, sono state doppiate nelle trasmissioni di approfondimento, queste intercettazioni hanno, come dire, rovinato o comunque fortemente ingiuriato la reputazione e la vita pubblica di questo dirigente Rai e di molte altre persone. Ma adesso, perché parliamo di lui, di questo dirigente Rai, di cui tra poco vi farò il nome? Per una ragione molto semplice, lo capirete. Perché la notizia dell'altro ieri, anche se nella rassegna stampa della RAI, quella del mattino, questa notizia non è stata neanche data. La notizia è che questa persona, sottoposta al giudice penale, e non c'era niente di penalmente rilevante, intercettata, e con queste intercettazioni, cacciata dal posto in cui stava, demansionata, il termine tecnico, e poi emarginata attraverso una sorta di congiura alla RAI anche di molti altri dirigenti che sono andati lì e hanno cercato di occupare il suo posto, perché questo è nella terribile natura umana. Questa persona si è scoperto, insomma, con larghe richieste di archiviazione, non aveva niente da rimproverarsi. Ecco. Si può discutere se le intercettazioni fossero un po' disinvolte, se il rapporto di questa persona con il capo del governo, perché di questo si tratta, quindi, come dire, un pezzo da 90, ecco, il pesce grosso, fosse sempre in un perfetto stile da cittadino, da funzionario del servizio pubblico a capo dell'esecutivo e presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, c'era un elemento di confidenza, di amicizia, eccetera, che in un'intercettazione, che in una registrazione privata, naturalmente dà l'aria dello scambio, dei favori, dammi una mano, fammi questo, ti prego, eccetera. Ma c'era solo questo, cioè una roba di normale umanità che non può diventare messa in pubblico una specie di condanna devastante alla reputazione e all'onore di una persona. Comunque, in termini di giustizia, la persona è Agostino Sacca, ce l'abbiamo qui in studio, in termini di giustizia Sacca non ha niente da rimproverarsi. Adesso è fuori e vuole rientrare dentro, sta dando un sacco di interviste, sta parlando, non ha mai abbassato la testa, ma in questo momento in particolare la tiene molto alta, e con lui commenteremo la sua stessa vicenda, la sua stessa storia, come storia simbolo dell'Italia di oggi, nel momento in cui si discute una legge sulle intercettazioni, e ne discutiamo anche con Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere in collegamento con noi da Milano. Quindi abbiamo anche Vittorio Feltri al microfono. Bene, 800 24 00 24, parliamo con l'elefante, al microfono Agostino Sacca. Sacca, buongiorno. No. Prosciolto da tutto, e adesso devono rifare le nomine alla RAI, c'è tutto un vertice da ricostruire, lei si trova fuori, provvisoriamente e tecnicamente in pensione, potrebbe rientrare, tutti sono curiosi di capire, insomma, il cittadino Sacca, il funzionario Sacca, il dirigente RAI Sacca, Agostino Sacca, per come lo si è conosciuto anche troppo attraverso le intercettazioni, come la prende, cosa fa dopo... Io credo, come dire, intanto di avere il diritto di ritornare a fare il mio lavoro. Ho subito una violenza inaudita dal giudice penale di Napoli, dai giornali, da una parte del sistema politico, da un pezzo avventizio della mia azienda, avventizio. Beh, avventizio mica tanto, si tratta di Del Noce, direttore di Rai 1. Non mi piace fare nomi, poi forse li faremo, no, voglio dire, presidente, direttore generale, avventizio legittimamente avventizio, ma che non sanno, non conoscono, non hanno, come dire, il senso della storia di questa grande azienda. Altri personaggi veramente avventizi che peraltro in maniera un po' incauta avevo assunto io da direttore generale. Avessi letto certe carte sarei stato... Si riferisce a Guido Paglia, credo, no? Sì, sarei stato molto attento e non solo, anche qualchedun altro. Che botte, ragazzi! E non solo, qualchedun altro. Quindi avventizi in questo senso, nel senso che poi l'azienda vera, l'azienda profonda, rappresentata dai Minoli, rappresentata da Giuliana Del Bufalo, rappresentata da una parte importantissima dei dirigenti, dalla DRAI, dall'associazione dei dirigenti che si è schierata con... Quella stava con lei. Sì, perché questo è il tema dei sicofanti. A un certo punto introdotto la questione dei sicofanti, spieghiamo bene cosa sono i sicofanti. Ma i sicofanti, diciamo... Cioè, cosa può capitare quando, dopo le intercettazioni, l'aggressione di un giudice penale, robe che tutte poi si volatilizzano, entrano in scena i sicofanti. I sicofanti sono coloro che, come dire, nell'antica Atene, nell'Atene democratica, dove non esisteva il PM, non esisteva il PM, erano tutti cittadini, c'era un PM collettivo, per cui i cittadini potevano accusare e avevano addirittura il diritto, se andava a buon fine l'accusa, ad avere il patrimonio dell'accusato. Potete immaginare cosa si scatenava. I sicofanti erano gli specialisti dell'accusa, dei cittadini che si erano specializzati nell'accusa per lucrare i cose. Certo, la democrazia ateniese si difendeva, aveva gli strumenti per difendersi. Cioè, quindi il sicofante accusava qualcuno di aver commesso un delitto, cercava di dimostrare questa è la verità per avere il patrimonio, eccetera, eccetera. Dicevo, la democrazia ateniese si difendeva dai possibili eccessi dei sicofanti, prevedendo addirittura la pena di morte per chi aveva costruito prove false. E qui c'è da fare esecuzioni capitali in quantità. Comunque esecuzioni almeno metaforiche, voglio dire. E cosa è successo in questa vicenda? Che ad un certo punto la RAI ha avuto dal giudice penale di Napoli intercettazioni che andavano distrutte, andava fatto lo stralcio per legge, lo stralcio non è stato fatto. E la RAI si è permessa, di sbobbinare queste carte con il capo dell'ufficio legale che li aveva diffidati, il capo dell'ordine, per carità, non ascoltarle nemmeno. Io ho visto, sono cose che lei dice oggi in un'intervista a Sabelli. Sono state, come dire, sbobbinate, trascritte con degli errori. O comunque delle manipolazioni. Errori maliziosi? Sì. In uno assolutamente sì, perché è quello che ha dato la possibilità a Del Noce di chiedere di praticamente dire io non parlo con Sacca, quindi c'è un'incompatibilità ambientale, Sacca deve lasciare la direzione di Rai Fiction, che ha preso poi lui. Perché maliziose? Perché c'era una parola in un'intercettazione secondo la quale io avrei falsificato delle carte per nuocere a Del Noce. Ora, la parola non era falsificata, era foderato, è stato dimostrato, è stato scritto dal capo dell'ufficio legale e dello stesso capo dell'auditing, che ha chiesto scusa dicendo non è questa, e tuttavia il meccanismo implacabile è andato avanti. Un foderato che diventa falsificato. Sì. Feltri, da questo inizio terribile, di storia, terribile. Immagino che lei Feltri è contrario alla galera per i giornalisti, alle grandi sublimi vendette di quella che ha definito la regina dei Celti, Deborah Bergamini. Lei giustamente dice adesso non è che ci mandate tutti in carcere, però lo scandalo è grosso, converrà Feltri. Sì, ma più che uno scandalo giornalistico è uno scandalo le cui responsabilità risalgono alla magistratura. Quindi dal mio punto di vista ben fa il centrodestra a ridisciplinare la materia delle intercettazioni, limitandola ai casi in cui esse sono necessarie. Trovo assurdo che ancora una volta si proceda sul piano penale nei confronti dei giornalisti, i quali naturalmente certo. sbagliano, vanno sanzionati, ma credo che una sanzione congrua non sia la galera, da 1 a 3 anni di galera. Già è assurdo che in Italia persino la diffamazione a mezzo stampa prevede processi penali, quando in tutti i paesi civili, quantomeno in Europa, la diffamazione è soltanto da sanzionare con un procedimento civile e quindi un risarcimento, perché se io vengo insultato sul giornale voglio essere risarcito, non mi importa niente che il cronista, che in malafede o in buona fede mi ha ingiuriato. Questo voglio dire, io voglio i soldi, non voglio vedere in galera il cronista. Mi sembra assurdo che in un momento ecco, ma secondo lei, a eliminare la galera e a trovare delle pene sostitutive, il centrodestra, che ha persino depenalizzato il falso in bilancio, poi quando ci sono di mezzo i giornalisti, vabbè, questi condanniamoli pure. I direttori responsabili, siamo a questo assurdo, se sono all'ospedale in coma o in vacanza alle Maldive, rispondono comunque penalmente di quello che avviene al giornale nel quale il direttore è assente. Però tornando al fatto, non al modo di raccontarlo e alle conseguenze di come viene raccontato sui giornali, tornando al fatto, vedi, mi stanno mettendo telefonate, adesso poi ci parleremo, Bruno da Roma, Gaetano da Frosinone, che dicono che io affronto il problema con troppa leggerezza, che non sono neutro, che in realtà è molto grave quello che è successo. Cioè, io penso che non ci sia, adesso sentiremo i radioascoltatori, la percezione sostanziale, vera, da parte dell'opinione pubblica in Italia della gravità che consiste nel fatto che un'indagine penale con intercettazioni può veramente spazzare via una intera generazione di persone, di quadri, di dirigenti, innescare meccanismi, abbiamo parlato della storia dei sicofanti tremendi di guerra interna, distruggere un patrimonio pubblico che è la formazione dei quadri. Cioè, sentiamoli, Bruno da Roma. Sì. Bruno, lei dice c'è la questione morale, Ferrara non è neutro, dica. Allora, volevo dire, sono aperto alle critiche. Sì, certamente, finché c'è libertà in Italia. Siamo in democrazia ancora. Certo. Volevo dire, ma la questione morale, ma il signor Saccardi, quella era la mia azienda, io occupavo ero il direttore generale, ma la questione morale di dire approfittare di quella sua carica per fare quel che gli pare con le cose pubbliche. Non parlo privato, se era privato non mi interessa, cose pubbliche. Bruno, però cosa, quali sono le cose? Bruno, appunto, il punto è questo. Le intercettazioni l'hanno convinta che aveva avuto una raccomandazione per far lavorare delle persone, ma magari a dispetto di altre persone che magari meritavano di più. Non lo so. Questo è ringraziato. Questa è la convinzione che si è. Ecco, allora, però, Sacca, scusi, Bruno, sì, è chiarissimo quello che lei ha detto. Sentiamo la allora, risposta. Questa è una cosa assolutamente, una percezione falsa della realtà. No, le raccomandazioni le sono state no, fatte. No, cioè, il fatto che io, il fatto che io li abbia fatto lavorare a discapito. Allora, io ho ricevuto segnalazioni come tutti, in tutto il mondo, non solo in Italia, perché chi conosce il mondo, come bel mondo, sa che la raccomandazione, la segnalazione è un sistema per farsi avanti nella vita. Il problema è se poi ci sono dei meccanismi neutrali di selezione. Io ho messo in piedi dei meccanismi neutrali di selezione, contrariamente ai miei predecessori, cioè dei collettivi che giudicavano i provini, per cui ho potuto dire anche al Presidente del Consiglio, anche ad un sacco di altri personaggi importanti, che è inutile dire, sono usciti sui giornali, ma non ha senso, maggioranza, opposizione, ma che chi è non che era possibile su, prenderli, diciamo che non era possibile prenderli, questo è il dato. Sa cosa c'è un Giorgio Dell'Arti fa il catalogo dei viventi, cioè parla dei personaggi, sa cosa c'è scritto su di me? Dice, sa capo, e alla fine intercettato, seguito, calunniatissimo, eccetera, vai a vedere cosa ha fatto e si rivela un dirigente integerrimo come pochi, che fa quello che è giusto per la sua azienda. Quando io facevo la fiction, ho fatto la fiction della Rai era 5 punti sopra quella di Mediaset. Adesso che io da 15 mesi non la faccio, è un punto sotto. Di questo parleremo. Allora, perché le dico questo? Non perché io sono bravo, perché quei meccanismi neutrali garantivano il successo. Quel rigore editoriale garantiva il successo. Sentiamo un'altra obiezione. Rosa Maria da Genova, anche lei non è d'accordo? Non è d'accordo? No. Dunque, no, allora, prego. Allora, secondo me qui c'è una manovra per poterci chiudere ancora, impacchettare, nel senso la democrazia ce la stanno chiudendo. Le intercettazioni, secondo me, devono essere assolutamente libere. Chi sbaglia poi deve pagare, come ha detto il giornalista precedente, io non so il nome. E il giudice che eventualmente mette fuori queste deve essere penalizzato. Non dobbiamo colpire la funzione dell'intercettazione, no, dobbiamo colpire le persone scorretto in cui vengono usate. Questa è la mia idea. La scorrettezza? Grazie Rosa Maria, qual è la scorrettezza che le è stata fatta, dottor Sacca? La vera scorrettezza dal punto di vista dell'uso, ammettiamo che queste intercettazioni fossero necessarie nel procedimento giudiziario, vabbè, può succedere, si viene intercettati, c'è un'iniziativa penale, poi si viene prosciolti, non c'era niente di grave, non si è fatto nulla e va bene, ma però invece c'è tutto il resto, cioè vanno in pubblico, scatenano questo. Chiaro. Allora, intanto non erano necessarie, lo vedremo se poi vorrà, sì. E se vuole approfondiremo, che è veramente una cosa incredibile per come è avvenuta, eccetera, e perché è avvenuta. La scorrettezza è che queste carte sono state passate a un giornale, a un giornalista di un quotidiano molto importante, prima che ce l'avessero le parti, il giorno prima. A chi? A Repubblica. A Repubblica, a D'Avanzo. Giuseppe D'Avanzo, cronista di Repubblica. Che è uscito. Ma lei si vuole rivalere? Io ho fatto una denuncia, ho fatto una denuncia alla Procura di Roma contro questo abuso. È la Procura di Roma che mi pare giudica i comportamenti dei giudici di Napoli e anche perché il reato si è consumato a Roma, il presunto reato della pubblicazione di materiale coperto da segreto istruttorio. E la Procura di Roma, che ha lavorato molto seriamente, ha fatto un'indagine serissima, ha concluso che sì, è vero, quelle carte erano uscite dalla Procura di Napoli, perché D'Avanzo era a Napoli in quei giorni, perché nelle utenze telefoniche di D'Avanzo c'erano telefonate con la procura, ma non era stato individuato materialmente e che quindi si chiedeva un'archiviazione per mancanza di... Noi abbiamo chiesto comunque di tenere aperta l'inchiesta e di procedere comunque, anche se non per dolo, per colpa grave, perché c'è una colpa in vigilando. Se sono uscite da lì, qualcuno doveva vigilare che non uscissero. E quindi il procedimento è ancora aperto. Uh-huh. Allora c'è, e credo che sia una delle primissime volte, viene fotografato il circuito mediatico, giustizia, giornale, fotografato nel momento in cui avviene da un giudice che dice sì, è avvenuto. Questa è una cosa orribile perché è una persona che, a prescindere dal fatto se ha fatto o non ha fatto, io non avevo fatto nulla. Io sono contento che c'è il direttore Feltri, perché il suo giornale ha testimoniato con delle interviste, dei cose, senza fare favori a nessuno, tanto meno a me, come io avevo lavorato alla RAI da direttore, i costi che avevo tagliato, ma questo, se vuole, ne potremo parlare. Quindi non solo non avevo fatto nulla, ma avevo fatto bene il mio lavoro. Improvvisamente si trova, come dire, sbattuto sui giornali, poi scatta un meccanismo mimetico pauroso, spaventoso, perché se l'ha pubblicato quello lo deve pubblicare quell'altro, lo deve pubblicare, e finisce in pasta a tutti, fino al sito della stessa RAI, fino al TG1 delle 20, cioè è qualcosa di incredibile. Il direttore generale, l'ex direttore generale della RAI, l'uomo che è stato direttore di RAI 1 per due volte, direttore della comunicazione, direttore del marketing, direttore del palinsesto, direttore della fiction, vice direttore di RAI 2, tutto! La RAI, sul TG1 lei si è delle sentito 20... proprio spremuto nudo, come un limone nudo, buttato. Cioè è incredibile, ma com'è possibile? Eccoci qui, abbiamo il telefono Evelina Manna, che è un'attrice che è stata al centro di questa catena, diciamo, di propalazioni, sì, pettegolezzi e considerazioni maliziose. Buongiorno signora Manna. Sì. Prego. Allora, quanto tempo ho? Perché vorrei proprio sfogarmi. 3 ore. 3 ore? Sì, 3 ore metaforiche, 3 ore in fiction. Beh, guardi, io intanto questo feuilleton proprio moderno veramente ha fatto ridere, però col retrogusto amaro, nel senso che io per 12-13 mesi sono stata in silenzio, però si sono accaniti con la pruderia delle foto le più sexy, le più sì, appunto particolari, le hanno cercate. Tra l'altro volevo, non so con chi è che sto in linea, c'è anche il direttore di Libero? Sì, c'è anche il dottor Felti, ecco, sì, approfitto Felti, perché volevo capire con quale abilità riescono a trovare le foto più brutte tra loro e il Corriere della Sera. Veramente anche lì non c'è stata giustizia neanche in quelli. Io ho decine e decine di editoriali, perché ho fatto un altro mestiere prima. Il mio problema è che il cliché della velina, della letterina, non ho nulla contro queste ragazze. Sì, la bella donna raccomandata in Rai è, come dire, il totem da abbattere, no? Per l'opinione pubblica e al tempo stesso oggetto, sì, di morboso desiderio, curiosità, attenzione, eccetera, e poi tutti sono contenti se possono, sì, ma dire cosa c'entra, scusi, mignotto grazia. Allora, io ho fatto la modella, dopo la maturità ho interrotto gli studi di filosofia perché non sono ubiqua e devo girare il mondo, perché se uno lo vuole fare a un certo livello, anche per arrivare ai grandi fotografi bisogna fare tra virgolette sacrifici, se si possono chiamare così, e allora girare, fare e dire è anche un bene, perché così si può aprire la mente, impararsi le lingue e tante altre cose, ma non per questo. Siccome ho perso il momento importante, perché dopo la maturità chi è che vuole fare l'attore o l'attrice? È chiaro che deve indirizzarsi verso l'accademia, verso il centro sperimentale, che sono le scuole più credibili che sono qui a Roma. Sì. Ma chi perde questo momento? Nel senso che io volutamente ho voluto prima mettere a posto la mia base economica, perché comunque chi ha il sacro fuoco come i veri attori. Ma insomma, il punto è questo, scusi, ma lei voglio dire, signora Manna, lei è stata oggetto di un terribile scambio delle cose, perché politico aziendale. No, ma ha lavorato? Cosa? Ha lavorato in seguito a queste raccomandazioni? No, intanto voglio dire appunto che dopo questo mi pare il problema, no? Appunto, anche piccolino, ma comunque super dignitoso, perché ripeto, anche se una non riesce a completare questi studi, queste scuole, ma si insomma si fa un sacco di seminari, un sacco di corsi di su, di giù, di recitazione in giro, teatro off, teatro sperimentale. Lei rivendica di essere una persona vera che ha cercato di farsi strada, no, diciamo, al momento, siccome c'è una gran confusione, non è che l'attrice ha poi è anche quella che fa la letterina o piuttosto che le televendite, cioè è tutta una confusione. Se una decide di fare l'attrice, è chiaro che è più difficile il percorso, perché soprattutto con la speranza. Comunque che... lei ha sofferto molto, diciamo, di questa. Beh, io penso, lo deduca lei, sì. Come si fa a non soffrire? No, io l'ho stradedotto, tant'è vero che molti ascoltatori dicono che non sono neutrale. Io penso in effetti che è stata commessa un'ingiustizia nei vostri confronti. Comunque, guardi, contro di me, non so, adesso le altre non le conosco, c'è stato proprio un accanimento e soprattutto da alcuni giornalisti, anzi mi ha sorpreso la posizione delle donne, che in questo caso non dico che sono state solidarie, ma comunque si sono mantenute su un terreno neutro. I giornalisti, alcuni proprio, non lo so, anche Marco Travaglio, ma che vuole da me? Si è accanito in alcune trasmissioni, Evelina Manna sopra, ma che gli piaccio? Io lo inviterei a prendere un caffè invece di dirmi come una demente o come la sexy idiota, così. Poi un concetto anni 80 ancora, non ho capito, e venga a farsi due chiacchiere con me. Travaglio è un uomo di destra, lo deve perdonare, insomma, c'ha quella visione, ma un po' marxista. Molto di destra. Qui non è una questione, infatti, è molto a sinistra. Sono ideologie del secolo scorso. Vabbè, io dico soltanto che è un bel momento... Manna, diamo un attimo la parola a Vittorio Feltri, che è stato imputato da lei di non avere scelto le foto migliori, e questo non solo, poi vogliamo parlare dell'espressione che ha riportato sul mio però so, facciamolo parlare. Un'intervista che doveva essere una carineria. Facciamolo parlare adesso, perché ma poi io naturalmente... non lo farei parlare, comunque prego. Come non lo farebbe parlare? No, perché, scusi, no, ma capisco. Mi date la squincia, ok? Capisco che lei è accorata, ma insomma. No, però... ma io accorata, ma allora insomma. Accorata, mica è un insulto. Io, per me questa squincia, non dico accorata. Calma, però sono anche calma perché è una prima mattina. Lo vedo. Adesso sentiamo Feltri. Sì, sentiamo Feltri. Beh, meno male che è calma. Io penso che le intercettazioni vadano indubbiamente limitate e l'uso deve essere assolutamente limitato a dei casi che richiedono un provvedimento speciale come quello di ascoltare le conversazioni dei cittadini, ma se la legge fosse la legge che si intende approvare fosse stata in vigore all'epoca della vicenda Sacca, avremmo visto d'avanzo in galera 3 anni e il giudice che gli ha passato le intercettazioni tranquillo a casa sua o magari in vacanza a Cortina, e questo è il lato assurdo di questa vicenda. Per quanto riguarda le fotografie, io credo che le fotografie sono quelle che vengono messe sul mercato e sono state scattate all'attrice, non certo da noi. Poi, signora Manna, un momento. Poi sì. La scelta delle fotografie da pubblicare, questa viene fatta da noi. Noi non siamo agenti dell'attrice, per cui mettiamo le fotografie. Sì, però al di là adesso, al di là Feltri. Che consideriamo più opportune. Per quanto riguarda il caso specifico, la signora parlò con me a suo tempo e io le offrì tutta la possibilità di intervenire per correggere. Le misi a disposizione il giornale e lei pretendeva che andassi io a fare l'intervista. Questo magari non era possibile, non perché io sia una persona speciale, ma perché ho altre cose da fare. Il giornale è un collettivo, quindi sarebbe andato qualcun altro, oppure avremmo per telefono fatto tutto. Poi se la signora questo non lo ha voluto fare, non può attribuirne a me la cattiva volontà. Comunque Feltri, lei riconosce che c'è un elemento patologico anche dal nostro punto di vista, diciamo, di chi fa i giornali? Assolutamente, ma l'ho detto all'inizio del mio precedente intervento. Qui non c'è il minimo dubbio, le intercettazioni vanno eliminate per i casi come quello di Sacca, per esempio. Non si capisce per quale motivo Sacca sia stato intercettato, non si capisce perché il capo del governo sia stato intercettato. Ecco, questo Sacca non doveva sostiene, avvenire. Sacca io sostiene, trovo assurdo che alla fine si prenda il terminale della filiera dell'informazione e si sbatte in galera. Questo è l'assurdo. Le intercettazioni è chiaro che hanno costituito un abuso specialmente negli ultimi tempi. Qui si intercetta per tutto e si intercettano tutti i cittadini. È una polemica, ecco, che è assolutamente fondata. Quindi il governo ben fatto a sollevare la questione, e se il Parlamento approverà una ridisciplina dell'intera materia, io sarò felicissimo. Non capisco perché ancora una volta la galera. Certo. Sacca sostiene, a proposito della domanda che prima lei si faceva, perché è stato intercettato, di essere insomma, che all'origine della sua vicenda c'è il fatto che lui è un aziendalista Rai, cioè uno che faceva gli interessi dell'azienda Rai, e c'è invece qualcosa di strano intorno a c'è un riferimento nell'intervista di oggi alla Stampa al fatto che Sacca amava la fiction prodotta. Qui c'è chi non è d'accordo, per esempio Virgilio da Ravenna sostiene che invece c'era un'intesa con Mediaset da parte Virgilio? Sì, pronto? Ecco, pronto? Dica la sua opinione, eccoci qua, pronti a registrare la sua opinione. Io intanto la ringrazio per l'opportunità. Sì, ma, i due attori principali di questa situazione sono comunque di fatto il proprietario di una rete televisiva privata e sì, il direttore di un'azienda che è pubblica e concorrente della stessa. Sì. In qualsiasi altra azienda, quando uno dei due attori proferisce delle frasi tipo, e credo di non sbagliare se non ricordo male, per lei tutto quello, lei può chiedere tutto ciò che vuole, compagnia, cantante, sì. In un'altra azienda, soprattutto private, avrebbe fatto le valigie il giorno dopo, perché credo che questo signore qui dovrebbe lavorare per fare della concorrenza all'azienda che ha di fronte, non praticamente costruire la Raiset, come viene detto. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie a lei. Lei sarebbe praticamente il predecessore di Bonolis, modello Rai 7 di, allora, di Maria De Filippi. Io ho sempre detto che Rai 7 è una banalità propagandistica, cioè in realtà la Rai ha fatto sempre una concorrenza molto ferma nei confronti di Mediaset e viceversa. Poi c'è una, come dire, un territorio di equilibrio della TV generalista, ma dico al mio interlocutore che il teorico o i teorici dell'equilibrio erano addirittura i presidenti o i direttori generali di sinistra che amavano la RAI, penso a Zaccaria, penso ai Seppi, che amavano la RAI e sapevano bene che l'equilibrio del sistema era prevalentemente necessario alla RAI, perché più debole economicamente, più debole finanziariamente, perché Mediaset ha un margine, credo, di 600-700 milioni di euro, la RAI ha un margine sotto oggi di 100 milioni di euro, quindi fare una concorrenza sfrenata sarebbe stato rischiosissimo per la RAI. Da sinistra questo. E per quello che mi riguarda, contano i miei fatti. Non è vero, vada a riascoltarsi le intercettazioni, se le ha registrate, vada a rileggersele, visto che l'hanno pubblicate tutte. Mai ho detto per lei tutto, nella maniera più assoluta. Ho detto, beh, vediamo quello che si può fare, farò fare dei provini e in base ai provini qualcosa succederà. Vorrei dire una cosa, non è che i provini si vincono se si è bravi o non si è bravi. Le persone segnalatomi da Presidente Berlusconi, in questo caso, sono delle brave attrici, non erano giuste nel ruolo che avevo indicato in quel momento. E meno male, perché se fossero state giuste mi avrebbero impiccato, voglio dire, anche se superavano un provino con una commissione di 5-6 persone. Infatti, la mia storia è la storia di uno che ha dato botte da orbe a Mediaset. Da direttore di Rai 1, ho preso Rai 1 al 21%, l'ho portata al 26% con Canale 5 al 20-21%. Tant'è che Pier Silvio Berlusconi nel 2000 mi propose di andare a Mediaset a fare il direttore di Canale 5 o il direttore generale di Mediaset, insieme ad altri personaggi. Ci fu un incontro. Ci fu un incontro importante, un secondo incontro. Il primo incontro fu a casa di Costanzo. Io avrei guadagnato 6 volte quello che guadagnava la RAI con le stock option, 6 volte di più. Non ci sono andato, e non ci sono andato per vari motivi: uno, perché a Roma si vive bene; due, perché mi stavo separando e avevo un figlio che io adoro, che soffriva di questa vicenda, se fossi andata a Milano, cioè. 3, perché in qualche modo si voleva la mia sapienza maturata in RAI per battere la RAI, e questo non era possibile. E quando poi sono andata alla direzione generale, ho trovato la RAI, peccato che non si può vedere, che no, stava, alla radio non si possono vedere, ecco, i grafici, che perdeva l'equilibrio, stava crollando. Io lo vedo, però, con il margine che scendeva a 28 milioni di euro. Era Capon il direttore generale. Benché ci fosse stato l'11 settembre, io prendo l'azienda, porto il margine a 223 milioni di euro, tagliando 200 milioni di costi e non perdendo un H d'ascolto, restando al 47%. Oggi si vede il grafico, il crollo: 223, 132, 106, 65, meno 129. Bene, le intercettazioni, la privacy, c'è una rarità, un radioascoltatore che sembrerebbe difendere, Ernesto da Piacenza, il diritto alla privacy in generale e per i politici in particolare, così dice la scheda. Ernesto. Salve. Lei è una voce rara, I radioascoltatori in genere se la prendono con gli intercettati, non con gli intercettatori. No, non è così. La mia è una considerazione, poi segue una proposta. Ora, la considerazione è questa: chi entra in politica automaticamente si impegna a lavorare per il bene pubblico. se no non vedo perché entri in politica se vuole farci suoi affari privati. Questi possono essere motivi personali, ma quello che ci interessa è che quando uno entra in politica ci entri perché si impegna. Bene, a lavorare questo, per il concetto è chiaro, secondo me chi entra in politica si impegna. Dopodiché, quindi, se io assumo l'incarico di fare il sindaco e accetto l'incarico di lavorare per la comunità, quale problema devo avere ad avere in ufficio una rappresentanza costante di cittadini che controllano quello che faccio, o ad avere il telefono controllato? Dovrebbe essere mio interesse se veramente lavoro per la collettività. Ah, lei dice quindi trasparenza assoluta, e per i politici in particolare non esiste il diritto alla privacy. Non dovrebbe esistere. Bene, in una democrazia mi ero sbagliato, vera. Il contrario. Non è che mi avete chiamato per quello, no? No, io ho mandato male tutte le obiezioni, mi sembrava giusto mandare invece una telefonata che dicesse però il contrario. Prego. Se mia moglie mi telefona intanto che sto facendo il mio servizio pubblico e mi parla di nostre questioni intime, queste considerazioni non possono essere divulgate. È qui che bisogna colpire, è qui che il giudice deve poter eliminare dalle intercettazioni contro le rende pubbliche le parti private. Beh, per esempio, nel caso di Saccano ha ordinato la distruzione delle intercettazioni, sì, che è una cosa tutto, abbastanza. Però. Quando bisogna togliere quelle parti che riguardano. Ma non c'erano, le parti penalmente rilevanti non c'erano. Evelina Manna, ecco, io lei chiede. Volevo dire solo questo: sì. Sai perché io sono la più, come ha detto lei, accorata? Perché il dottor Sacca può essere testimone. Io sono andata da lui. Chi lo nega? C'è un passa alla RAI che lo dice una volta sola, perché avevo chiesto espressamente la voglia di incontrare un'autrice come la Cavani, lui se lo deve ricordare, perché quando stavano preparando al Stai. No, mi deve far finire, dottor Ferro. Almeno lei sto confermando che è vero, ho detto che è vero. Sacca conferma, il notaio allora, conferma. No, in tutto questo, oltre il danno, la beffa. Io non so poi le conseguenze delle altre, cosa è successo, cosa non è successo, non lo so, non me ne frega niente, tra l'altro. Ma io che sono andata lì e ho chiesto solo questo, perché, ripeto, è proprio difficile quello che lei mi ha interrotto. Volevo fare questa piccola premessa, perché capisco l'impronta della trasmissione estremamente anche politica, però bisogna anche chiarire agli utenti, agli ascoltatori, come funziona un pochettino, la storia dell'attore e l'attrice adesso. Allora, quando è così difficile arrivare persino all'incontro con un autore, e il dottor Sacca lo può confermare, perché sono tantissime, è una questione anche di mercato, molta più offerta che domanda, i progetti non sono quasi tutti al femminile, anzi quasi per niente, poi bisogna tenere conto soprattutto. Ma cosa vuole dire, scusi, l'incontro con l'autore? Cosa voglio dire? No, dove vuole arrivare? Quando uno ha un bel momento, ha la possibilità, io non ho mica chiesto. Ah, volevo ritornare sul politico. Allora, io non capisco perché sono stata così, massacrata quando non ho chiesto né un ministero, no, di fare l'ambasciatrice, semplicemente la possibilità di andare a incontrare. È stata massacrata perché il meccanismo, signora Manna, che stiamo descrivendo, e lo stiamo descrivendo in termini cronistici e politici con l'aiuto di Sacca, che ne è stato vittima e che adesso è stato, c'è una richiesta di proscioglimento fatta da tutti i procuratori possibili e immaginabili, quel meccanismo stritola, e chi c'entra dentro viene stritolato, non c'è niente da fare, l'intercettato ha sempre torto. Caso, appunto, io non sono riuscita neanche a vederla poi la signora Cavani. Ah beh, questa è un'altra cosa, adesso spero che riesca, faccio appello alla signora Cavani perché la riceva, così è una raccomandazione in pubblico da Radio 24 col bollo della Confindustria, e nessuno può, è vero, o possono intercettare anche, una trasmissione radio non sarebbe male, questo sarebbe veramente una cosa nuova e un po' surreale, intercettare le trasmissioni radio. Va bene, grazie signora Manna. Sacca. Sì, io volevo completare un attimo quello che stavo dicendo prima a proposito di Rai 7, di io che sarei stato, eccetera. Andando avanti, avevo parlato dei Conti, avevo parlato di Rai 1, alla Fiction, anno 2006, peccato ancora che non si possa vedere, lei però lo vede, sui top 30... I bianchi sono Rai 1, i rossi sono Canale 5. Beh, qui come è pazzesco, vede, sembra alto gradimento, come quando facevano vedere alla Ragione. Il primo Mediaset arriva all'undicesimo posto e sono soltanto tre titoli Mediaset e 27 di Rai 1. Nel 2007, sui top 20, sempre tre di Canale 5, il primo di Canale 5. Lei che cosa vuole dire? Che lei batteva Mediaset? No, non solo questo. Voglio dire che il comitato etnico della RAI, o etico, no, etnico. C'è anche un comitato etnico, siamo comitato, l'hanno definito così dopo... Feltri, secondo lei bisogna fare anche un comitato etnico alla RAI. Dopo le epurazioni, dopo le come le chiamano, le epurazioni anche di Bergamini, eccetera, il comitato etico della RAI, che non era fatto da miei amici, anzi era fatto da persone tutte schierate con la direzione generale, dentro c'è il dottor Leone, c'è il capo del personale, eccetera, e tuttavia ha dovuto concludere, e non hanno potuto fare, eppure forse mi volevano impiccare, che Sakai in tutti i suoi comportamenti ha un solo obiettivo: costruire prodotti vincenti, tutelare sempre gli interessi della RAI, e considera Mediaset un obiettivo da battere. È scritto nero su bianco. Che c'è? Avete caldo in regia? Che succede? Vedo che fanno dei segni terribili. Caro Sakà, lei ha parlato bene di se stesso. Che è una non cosa... di me stesso, no, ho detto che... i fatti. Di se stesso, del suo lavoro, che è una cosa che in genere uno cerca di evitare di fare. Ma invece ha fatto bene a farlo, perché lei è forse la persona di cui si è parlato peggio in Italia nell'ultimo anno e mezzo. E si è visto da una pronuncia della magistratura che tutto questo peggio non c'era. Ma su questo però... Un po' birbone le intercettazioni erano, e questo secondo me sì, sarebbe giusto che lei lo ammettesse. Sì, ma sul peggio, trattato peggio, non sono d'accordo. Cioè 25 tra i più grandi autori italiani, tutti di sinistra, dalla Cavani a Roberto Fez, hanno scritto non toccate Sakà. Sì, sì. Cioè io ho ricevuto migliaia di lettere, di cose, di telefonate. E c'è, certo c'è un pezzo di circolo... o circo, no? Circo mediatico, no? Che ha fatto la sua parte. Che ha fatto la sua parte. La sua parte, ma questa è la storia di questo paese, ma di che parliamo? Va bene, tanti auguri comunque, grazie a lei, grazie a Vittorio Felti, grazie alla signora Manna, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattè, linea al giornale radio, poi a Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0. Grazie a tutti, ci risentiamo lunedì mattina. Baci.